fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Sempre in diretta, bentornati a tutti. Sabato 8 dicembre del 2018 sono anzi le 2 e 12 del mattino per essere precisi. Continuiamo con il giro dei festeggiati, perché dopo aver avuto due spose, dopo aver avuto la classe di mezzo corona divisa in vari gruppetti, è il momento di un altro festeggiato, di un altro bel compleanno. Diamo il benvenuto a Nicola. Buonasera a tutti. Benvenuto, benvenuto Nicola, che viene da Bergamo. Bergamo, e festeggia quest'anno? I 27 anni, purtroppo. Ma come purtroppo? Come mai? È una bella età, 27. Ah beh, iniziano a salire, sì, iniziano a salire. Però diciamo che è una bellissima età, non perché chiaramente diciamo che si ricorda, anche se non è finita benissimo, grandissimi artisti. Sai che c'è il club dei 27. È molto bello, cioè insomma, dopo non sono finiti benissimo purtroppo, però diciamo che i nomi detti uno dietro l'altro, un destino segnato, esatto, però segnato. I nomi detti uno dietro l'altro fanno venire la pelle d'oca sicuramente. Allora Nicola, è stata una bella serata? Bellissima. Oh, bene bene bene. Chi ti accompagna? Tutti i miei amici. Ok. Compagni, sì, di squadra, amici di una vita. Ok. Compagni di classe. Squadra di cosa? Lasciamo perdere quella. No, che è stata no, compagni di squadra. Aspetta, aspetta, compagni di squadra nel senso giocate a cosa? Pallavolo, calcio, cosa? Calcio, calcio. Ah, ok, calcio. Calcio. Ci proviamo almeno. Difficile, difficilissima, difficilissima. Abbiamo qua tra di noi il mister. Ah, è mister lui, il mister. Oh, ci dica come va. Ci promuova la squadra. La promuovo, sì. No, non promuova nel senso promossi o bocciati, ci promuova nel senso ci racconti qualcosa. No, nel senso intanto partiamo dal nome. Che... lui è la squadra. anche il suo, benvenuto. No, no, tranquillo, ragazzi. Tranquillo. Vai. La squadra è il Torre Bordone. Ok. Sì, sì, sì. Di Bergamo, provincia di Bergamo. Bergamo. 11-7. A 7, ok. E ci dica com'è andata o come sta andando la stagione. Allora, la stagione tra alti e bassi devo dire che sta andando bene. Beh, Democristiano è sì. già preparato alle interviste, sa cosa dire. Sì. Dici la verità, allora, dici la verità. Il capitano parla. Veniamo? Da una retrocessione dello scorso. Ok. Diciamo... Ma ci sono le retrocessioni a 7, sai che non lo sapevo. Esatto, sì. No, cioè, le hanno inventate per voi, perché è un mondo duro. Infatti, difficile. Io non lo sapevo. A qualcuno doveva toccare. Esatto, esatto. Però mi piace che la prende con filosofia. Sì, devo dire. Ok? E diciamo che quest'anno è un anno zero. Sì? Non ci poniamo grandi obiettivi, però devo dire che il lavoro... State già ricostruendo, come il Milan, più o meno. Ma il gruppo è rimasto lo stesso o è stato rivoluzionato un po'? Il gruppo è lo stesso, a parte un paio di elementi che sono nuovi. Però diciamo che la base è quella. Il modulo, dobbiamo sapere il modulo, come giocate? Il modulo l'abbiamo cambiato rispetto allo scorso anno, giriamo con un 2-3-1. 2-3-1, ok. Con un paio di jolly, di la verità. Ma lui sta in panchina o gioca? Lui gioca ma sarà in panchina. Perché lo vedo molto. No, lo vedo molto arrembante. Perché sono il gorriello della squadra. Lo vedo molto arrembante, il che pone. Ci piace fare serata e non ci piace allenarci, capito? No, ho capito. No, dicevo, lo vedevo molto arrembante, il che pone due strade. O è tipo intoccabile all'interno della squadra, o è panchinaro fisso, quindi sa di non poter andare oltre. Quello lo volevo. Io vengo dalla parte 2 e scelgo la seconda. Ah, ok, scegli la seconda. Attenzione, sarà un anno difficile per il ragazzo. È un anno in salita per noi. Io così mi comprerei un plaid. Tanto per. Sì. Compratelo e tienitelo buono. Perché... Allora punteremo, esatto, sul lavoro e non sul calcio, capito? Capito. Perché sai che di solito si dice devi fare di tutto per far ricredere il mister, ma ho paura che qui non sarebbe abbastanza. È inamovibile. Ma parliamo invece della carriera calcistica del festeggiato, che mi sembra giusto parlarne in questa serata. Sto dolente. Ah, niente. Speravo che ci fosse un po' di clemenza per la festa, no? Niente. Quantificaci quanto ha giocato. Dovessi dirti oggi ha giocato 10 secondi. Al ginocchio. Madonna mia, neanche Ronaldo in queste condizioni. Va bene Ronaldo. Sì, qualcosina ha fatto. Io invece. Infortunio al ginocchio, mamma mia. Però aspetta, però sì, giocate il sabato. Commento caldo. Ci ha offerto una gran serata qui al convento per farsi devo perdonare. Dire, sì, che comunque per farsi perdonare ci ha regalato una serata. Guarda che secondo me io l'ho visto l'occhio vispo del signor Nicola qui, anche perché insomma è un professionista, esatto, e tutto rispetto nel suo lavoro. io ho percepito un finto infortunio per tenere le energie per la serata con per rendere al meglio. Per rendere al meglio, vedi che. Diciamo che era più importante la serata della esatto, partita. Esatto. Quindi è come se. E sai quelli non che. Sai quelli che alla seconda, alla penultima del girone dei Champions prendono il giallo per non prenderlo agli ottavi di finale. E lui se l'è giocata più o meno allo stesso modo. Ha detto non mi faccio ammonire, ma fingo l'infortunio subito. Così me la tolgo dalle scatole. Diciamo che ho avallato la scelta. Anche perché fa freddo, no? Il clima. Poi rischiava che venisse col sudore, che gli venisse qualcosa. Non volevamo rischiare la serata. Esatto, non voleva giocarsi la serata. Fino a marzo non si allena, hai capito? Fino a primavera. Riposiamo, vabbè, ci sta, insomma, meritato riposo, un giro in tribuna. E allora, a parte il mister, poi vabbè, hai detto amici di infanzia, amici del calcio, ok? E le cheerleader che vediamo fuori invece? Tutte ragazze. Non le conosco. Non le conosce. È un po' San Pietro, le ha rinnegate tutte. Le ha lasciate là. Allora, e dicevamo anche che il nostro Nicola è un professionista, questo è tutto vero. Dici cosa fai nella vita? Oltre a lavorare come tecnico. No, era quello. No, era. Oltre al calciatore. Dici l'altra che si fa godere, dillo. Qual è l'altra? È il brand, dillo in diretta nazionale. Lavoriamo per uno sponsor che è New Balance. Sì, ok, conosco. Parte running. Sì. Io sono un ex atleta. Ok. Ho smesso 18 anni di correre perché la voglia non c'era più. Ok. Ma su che distanze? 800 metri di 400. Mezzo fondo quindi. Ah no, ok. Mezzo fondo. Bravo. Ok. Però adesso ci fa godere con un bel po' di New Balance. No, New Balance in giro per l'Italia, per il mondo, sì, New York. E che lavoro fate? Che collaborazione avete con loro? Promozione, eventi, gare. Sì. Negozi, per promuovere ovviamente le scarpe da vendere. Quindi fuori dal lavoro, fuori dall'ora di lavoro. Una cosa in più. Aspetta, ma quando una serata New Balance qui al convento? Perché qua bisogna Sta. Bisogna concentrarsi. Volevo capire il vostro ruolo, cioè spiegami praticamente in cosa consiste. Promuovere ovviamente il marchio con i prodotti. Che sono eccellenti, non solo perché sono di parte, ma lo sono veramente. Sì, sì. Ok, promuovere. No, diceva giustamente di avvicinarsi. Ok, e andare in giro per le città della Lombardia, Liguria, Piemonte. Ma anche d'Europa, sì. Non essere umile. Quelli sono altre persone. Ok, però sempre per capire, ti chiamo io o mi vieni a cercare tu? Ti posso venire a cercare. 50-50, esatto. Okay, noi okay. Organizziamo eventi magari in negozi tecnici, okay. O in gare. Okay. Che in gare prevedono comunque iscrizione di varie persone dove magari non conoscono il brand o non conoscono la scarpa e noi informiamo il certo. Cliente, invitiamo. Facciamo provare con test prova del prodotto, della scarpa, una corsa insieme così e così. Ampliamo la conoscenza del cliente. Certo. Beh, tutti coinvolti in questo, cioè tanti coinvolti immagino in questo progetto. Conoscono tutti perché ormai faccio una testa grande così. Serata brandizzata può accompagnare solo. Esatto. Ci sta, si può organizzare assolutamente. Più, convento, più avanti. Assolutamente proveremo, sì, ci proveremo. Allora Nicola, vuoi fare un saluto? Vuoi dire qualcosa? Al di là di comprare le scarpe. Ma sì, se volete comprare le scarpe. È quello, è importante. Ringrazio tutti gli amici che sono qua in tanti, tutti presenti, tutti invitati, tutti presenti e grazie. Hashtag convento, hashtag fino alla fine. Bene, perfetto. Facciamolo. Allora, lei vuole essere salutata, mi sa, dalla rabbia con cui ha reagito alla mancanza del suo nome nella lista. Non è vero. Bene, allora grazie mille ragazzi, grazie Nicola per la tua festa, per averla organizzata qui e grazie ovviamente a tutti loro che ti hanno accompagnato e ti hanno permesso, speriamo, di vivere una bella serata e in bocca al lupo al mister per la stagione, ovviamente speriamo che riesca a risollevare le sorti della squadra, che le riporti sulla retta via. Fammi giocare mister, esatto, fammi giocare. Infatti l'ho tenuto per ultimo apposta, in bocca al lupo al ragazzo per la stagione dura che lo aspetta, ma speriamo che riesca. Che riesca a sovvertire i pronostici dell'inizio e a scalare le gerarchie, ecco, della squadra. Tu ti senti tranquillo? Sì, sono tranquillo. Un fiore, tranquillissimo. Bene, grazie mille ragazzi, buonanotte, buon divertimento. Ciao! Ciao!